Incontri di Gianfranco Fabi. Buon anno fratello, buon anno davvero. Spero sia bello e leggero. Che voli sul filo dei tuoi desideri, ti porti in momenti profondi e i misteri rimangano dolci misteri. Niente modifichi fatti di... E allora con Giovanotti, buon anno, buona domenica e buon pomeriggio da Gianfranco Fabi. Buon anno, buona domenica e buon pomeriggio a Innocenzo Cipolletta che è qui con noi. Buongiorno, buon anno a tutti quanti. Allora, Innocenzo Cipolletta, economista, una lunga carriera di economista, attualmente presidente dell'Università di Trento, presidente di UBS Italia SIM, in passato, nel recente passato, presidente di Ferrovia dello Stato e del Sole 24 Ore. E ho dimentico qualcosa? Beh, la vita è lunga, ho 70 anni tanto per cominciare, quindi evidentemente ho fatto tante cose. Direttore generale di Confindustria, da economista ha iniziato, mi sembra, all'ISCO. Sì, l'ISCO era l'Istituto per lo Studio della Congiuntura Economica, erano gli anni 60, anni in cui la congiuntura andava bene, però ogni tanto si affievoliva e quindi noi studiavamo i cicli economici, come saliva e cresceva l'economia, e lì ho imparato a fare le previsioni dell'economia italiana, a studiare l'economia giorno per giorno, quasi un po' un mestiere da giornalista economico, perché ogni giorno guardavo quello che succedeva. Tra l'altro ha scritto anche articoli e libri, tra l'altro l'ultimo libro, lo citiamo, Banchieri, politici e militari, passato e futuro delle crisi globali. Ecco, crisi attuali che sono forse un po' diverse, un po' più forti di quelle degli anni 70-80. Ogni crisi è forte quando uno la prova. E poi ovviamente una volta che l'ha passata la crisi sembra leggera e quella che viene dopo sembra orribile perché non assomiglia a quella precedente. Io confesso di aver passato parecchie crisi pesanti, crisi storiche, crisi di quelle che uno diceva dopo di questa tutto non cambierà, nulla sarà come prima, e poi si è andati avanti. E quindi è vero, questa crisi è pesante, non ho elementi per dire che sia terminata, tutt'altro. Posso però dire che la dimenticheremo, ma dire anche che ne affronteremo un'altra che sarà ancora peggiore, chissà quando. Ecco, siamo il primo gennaio del 2012, è obbligatorio fare un po' di previsioni, ecco, magari non a lungo termine, perché come diceva Keynes, a lungo termine non avremo più problemi, perché avremo problemi di altro tipo, ma ecco, un po' nel medio termine, nel breve termine, un anno è un breve termine, sì, in fondo, secondo voi economisti. Sì, un anno è un breve termine, faccio un banale esempio, quasi da statistico, per esempio quest'anno... il 2012 inizia con un trimestre precedente, cioè la fine del 2011 estremamente bassa, quindi non è difficile fare la previsione sul 2012. Purtroppo il 2012 sarà un anno di riduzione del reddito, perché cominciamo bassi e anche se dovessimo crescere in corso d'anno, alla fine -1,5%, -2%, questo sarà il risultato che ci aspetta quest'anno. Ecco, quindi fare le previsioni non è difficile, ogni tanto ci si indovina anche facendole. Ecco, quindi guardando un po' il futuro dobbiamo prevedere una fase negativa e poi per l'Italia una ripresa forse nel 2013. Sì, questa è la previsione più agevole che si fa in questo momento. Diciamo che questa è anche la previsione che si fa per tutta l'economia mondiale, in particolare per l'Europa. All'Europa bisogna aggiungere che noi speriamo tutti quanti di avere un'Europa più cosciente, più politica questa volta, cioè un'Europa che prenda le sue brave decisioni a difendere questa grande moneta che ha creato l'euro e della quale nessuno si vuole prendere la responsabilità di difenderla. Speriamo veramente che ci avvenga. Ecco, l'euro è servito forse nei primi 10 anni più per nascondere i problemi che per risolverli. No, io non credo questo qui. L'euro è una grossa scommessa di un futuro di un'Europa unita. Ci è servito per creare un mercato interno, ci è servito per avere anche un costo del denaro più basso da parte di tutti quanti. Ora quello che manca è comportarsi di conseguenza. Alcuni paesi, l'Italia fra gli altri, ha dovuto fare delle manovre di risanamento che avevamo in parte evitato. Dico in parte perché noi siamo entrati nell'euro in maniera abbastanza virtuosa, pagando una tassa. Il governo di Ciampi e Prodi ci fecero pagare una tassa e gli italiani pagarono e entrammo nell'euro. Poi cominciamo a abbassare il debito. Dopodiché venne la crisi del 2001, quella diciamo degli attentati alle Torri Gemelle, e allora per paura di cadere in depressione abbiamo ricominciato a spendere. Poi abbiamo avuto nel 2006-2007 un nuovo governo che ha di nuovo stretto la vite E poi ne è venuto un altro, l'ultimo, diciamo, prima del tecnico, che invece ha speso a man bassa. Oggi dobbiamo fare risparmi. Ecco, ma è possibile in una struttura come quella della italiana, molto complessa, certamente un po' pletorica, tagliare le spese, ridurre il peso dello Stato, delle complicazioni burocratiche, una cosa che si dice da tempo, si dice sempre, ma poi tutti i governi lo promettono, ma difficilmente riescono a farla. Sì, si può fare, è stato fatto in maniera limitata, si può fare. Certo, ridurre le spese è un processo più lento e più lungo che aumentare le entrate. Quindi è ovvio che quando uno è preso con l'emergenza, la prima cosa che fa è aumentare le tasse. Quelle sono immediate, in 5 minuti la si benzina, riesce a raccogliere sempre moneta. Ridurre la spesa in maniera intelligente, cioè permanente, significa modificarne i meccanismi. Modificare i meccanismi prende del tempo, anche come effetti. Per questo spesso si parla delle manovre nei due tempi. Il primo è la mazzata delle tasse e il secondo è la riforma. Ora, noi abbiamo avuto molti governi che si sono fermati alla prima mazzata, poi perché hanno avuto paura di andare avanti, un po' perché sono caduti, perché noi abbiamo una instabilità, anche quando rimane lo stesso governo cade perché non è più lo stesso dopo qualche mese. Abbiamo bisogno di una stabilità politica che abbia come obiettivo quello di ridurre la spesa attraverso procedure modificate, perché tagliare la spesa meno 5%, meno 20%, fa un bell'articolo sul giornale, ma non produce nulla, anzi produce delle distorsioni pazzesche. Anzi, maggiore inefficienza, perché poi Totale. Se la spesa è stata, se i tagli sono fatti in maniera, come si dice, lineare, diventano tutti meno efficienti. Esattamente, perché si continuano a fare le stesse cose con meno soldi, e tutti sappiamo che se abbiamo meno soldi non dobbiamo fare le stesse cose spendendo di meno, dobbiamo cambiare sistema di vita. Cambiando sistema di vita magari si scopre che si possono fare dei grossi risparmi. Non dico che addirittura ci sta meglio, ma perché no? Certo, il dottor Cipolletta è stato tra i fondatori, se non sbaglio, del Festival di Trento, il Festival dell'Economia, dei promotori con l'Università di Trento, e allora era presidente del Sole 24 Ore di questa iniziativa. Anche quest'anno si ripeterà. Ecco, un confronto tra economisti e gente comune è molto interessante. Assolutamente. Quando abbiamo iniziato questa avventura eravamo convinti di fare qualche cosa che nel tempo sarebbe cresciuta. Questa era la nostra aspirazione. Invece ci siamo trovati con una risposta immediata, fortissima, quasi 50.000 persone che in un bel weekend di inizio giugno, quando pensavamo tutti che la gente andava al mare, sono venuti a Trento e hanno discusso con economisti i problemi dell'economia, che sono poi i problemi di tutti i giorni. E allora ci abbiamo preso gusto e siamo andati avanti. Adesso siamo alla 7ª edizione. Questa volta parleremo di cicli di vita, una cosa importante, le pensioni, trovare il lavoro ai giovani, come fare a avere del risparmio sufficiente per quando si è anziani, quando smettere di lavorare. Sono tutti problemi, purtroppo o per fortuna, certo, attuali. Io sono convinto che la gente gli interessa una discussione pacata. A Trento non si urla, non si fanno talk show, si presentano tesi, si fanno domande e alla fine se ne ritorna magari ognuno con le sue idee, però più arricchiti. Quindi anche per quest'anno, questo 2012, l'appuntamento è fine maggio, inizio giugno a Trento. Per inizio giugno, è la prima primo weekend di giugno. Tutti quelli che vogliono venire a sentir parlare di economia in tranquillità, in una bellissima città dove si sta molto bene, vengano a Trento. L'Università di Trento è sempre in salute. Beh, l'Università di Trento anche quest'anno ha avuto questa volta la seconda posizione come Università della Ricerca, il premio che il governo assegna alle università virtuose. Ha visto Trento subito dopo il Politecnico di Torino. Un anno prima eravamo primi noi, adesso sono primi loro. Dico che è una buona università che sta andando bene, piccola, non pretende di fare concorrenza alle grandissime università, ha numeri relativamente piccoli ma sicuramente di grande qualità. Incontri. Buon anno fratello, buon anno ai tuoi occhi, alle mani, alle braccia, ai polpacci, ai ginocchi. Buon anno ai tuoi piedi, alla spina dorsale, alla pelle, alle spalle, al tuo grande ideale. Buon anno fratello, buon anno davvero, e spero sia bello, sia bello e leggero. Bentornati con il buon anno di Jovanotti, riprendiamo il nostro incontro con Innocenzo Cipolletta, parlavamo dell'Università di Trento, Trento Nord-Est, mi sembra che tra gli incarichi attuali di Innocenzo Cipolletta ci sia anche un incarico che guarda molto, molto avanti. Sì, io guardo al mio futuro, malgrado la mia età, nel 2019, nel 2019 tocca all'Italia avere la città europea della cultura. E allora Venezia, insieme a tutto il Nord-Est, è una grande regione, si candida per questo evento. E io sono stato nominato presidente del comitato scientifico che elabora il programma per questo grande evento, questa grande occasione. La città europea della cultura è quella che è servita a rilanciare Genova, per esempio, che si è ricostruita e che ha fatto il fronte del porto, è quella che ha rilanciato Liverpool, è quella che è servita in qualche maniera a scoprire un fatto quasi insolito, che la cultura può servire all'economia, oltre che l'economia serve alla cultura. In pratica le Olimpiadi della cultura a Venezia e nel Nord-Est, quindi una serie di incontri, di dibattiti, certo, una serie un di incontri... festival di Trento portato a livello... Non solo, perché la nostra ambizione non è tanto quella di fare i fuochi d'artificio, cioè un evento che inizia il 1 gennaio e finisce il 12 dicembre del 2019 e poi basta, ma quella di investire sul territorio per avere delle attività che poi rimangono. Faccio degli esempi. Noi abbiamo sempre avuto l'abitudine di vedere, purtroppo, molte fabbriche dismesse che diventano musei o centri culturali. Benissimo, meglio che abbatterle o lasciarle. Ecco, la nostra ambizione è vedere qualche museo che crea un'impresa. Per esempio la conservazione, non solo il restauro dell'antico, che è una grande tradizione italiana, ma basti pensare alla conservazione del moderno. Abbiamo tantissime opere di moderno fatte con materiali come la plastica, materiali organici, ma pensiamo a tutti i materiali elettrici, le vecchie lampadine o il neon, che costituiscono molta parte delle opere d'arte degli anni 60. Questi materiali non esistono più o si stanno deperendo, bisognerà sostituirli con qualche altra cosa, bisogna inventarsi qualcosa per conservarli. Dobbiamo conservare la memoria anche di ciò che è contemporaneo. Perché non immaginare un laboratorio dove le università mettono le tecnologie, i musei mettono la domanda e le loro opere e l'imprenditore organizza per un'attività che può anche avere ricadute, che so io, sull'edilizia, per esempio, certo, per la conservazione di palazzi e di monumenti. C'è una logica in fondo post-industriale in cui resta l'impresa, ma un'impresa di diverso tipo, un'impresa capace appunto di costruire un insieme di servizi per settori come il turismo, ma anche poi per chi ci anche abita. Anche manifatturiero, tecnologico. Bisogna sempre ricordarsi che l'impresa altro non è che un gruppo di persone che cercano di risolvere i problemi di qualcun altro. Se risolvono dei bei problemi, in particolare di gente che ha soldi, ci guadagnano perché la gente paga per la soluzione dei suoi problemi. Allora, per fare un'impresa bisogna andare a caccia dei problemi. Più problemi ci sono, più ci sono possibilità di fare impresa e più c'è possibilità di crescere. Visto che abbiamo tanti problemi, certo, è una grossa speranza per noi. Quindi ecco, l'economista Innocenzo Cipolletta guarda questa crisi anche come un'opportunità di un'industria che però deve trasformarsi. Ecco, l'industria italiana è capace di trasformarsi, di aggredire i nuovi mercati, di sfruttare le nuove occasioni? Sì, magari non tanto quanto vorremmo, però noi dobbiamo tenere presente che la nostra industria si è completamente trasformata dal 2000 in poi, perché dal 2000 in poi non ha avuto più le svalutazioni e si è trovata a dover competere con giganti come la Cina e l'India. E quindi che cosa abbiamo fatto? Non è che abbiamo cambiato i prodotti, ma siamo saliti di gamma. Abbiamo abbandonato tutte le produzioni di bassa gamma e ci siamo situati su un mercato di nicchia, sembrava, di gamma molto alta. Ora questa nicchia è cresciuta parecchio perché con l'invento di miliardi di persone come sono i cinesi e gli indiani, questo mercato di nicchia è ormai un segmento di mercato dove un paese come l'Italia ci può rientrare in maniera abbastanza agevole. E noi abbiamo fatto questo upgrading, così si dice in inglese, sì, delle nostre produzioni, che ci ha consentito di produrre anche con i costi nostri, perché il problema di un paese come l'Italia non è quello di abbattere i costi e di impoverire la gente perché così si fa competizione con gli altri. Il nostro problema è produrre prodotti di alta qualità con i quali ci si possa dare dei salari e delle remunerazioni corrette per un paese che ormai è una delle potenze industriali e che deve vivere a dei livelli di vita che ha conquistato con grossi sacrifici e che non deve perdere. E quindi può restare un paese manifatturiero, come si dice, un paese industriale, un paese in cui si produce? Deve restare un paese manifatturiero dove si produce. È diverso la maniera di produrre, perché ci vorrà più cervello che braccia. Probabilmente porteremo anche sempre molte cose fuori da fare, ma la concezione di queste cose, il servizio al cliente e lo studio del problema. Per esempio, l'Italia è diventata un grande produttore di quelli che io chiamo prodotti fatti su misura. I prodotti fatti su misura sono, che ne so, macchinari speciali per chi deve fare certi tipi di funzioni. Se io faccio un macchinario speciale per uno che deve tagliare mobili, supponiamo, glielo faccio solo per lui, non è imitabile. Certo. Diventa un monopolio virtuoso in un certo senso. Ecco, però l'Italia è anche un paese che forse deve puntare un po' di più anche sui servizi, sul turismo per esempio, soprattutto per il Mezzogiorno. La politica degli ultimi anni non è stata una politica molto costruttiva, abbiamo perso posizioni nei grandi flussi turistici internazionali. Sì, dobbiamo puntare sui servizi e sul turismo, anche qui con una logica di valore. Noi non possiamo, non dobbiamo essere il paese invaso dai milioni di turisti che vengono qui in Italia a riempire strade e case, perché non è la nostra funzione, non ne saremmo capaci, i nostri costi sono elevati, distruggerebbero il paese. Noi dobbiamo dare un servizio di qualità che consenta alle persone di godere di un servizio culturale e di spendere di più essendo più soddisfatto. Certo. Quella è la competizione che sta facendo la Francia in questo momento, per esempio. Noi non dobbiamo lamentarci perché le nostre spiagge non sono più invase dai turisti stranieri che un tempo venivano e stavano un mese, due mesi. Oggi è completamente diverso. Molti italiani vanno in vacanza, spesso vanno all'estero e tutto l'anno deve essere un anno di turismo. Ecco, però il fatto che a Palma di Mallorca ci sono decine di campi da golf e in Sicilia ce ne siano due, forse sono un po' pochi due campi da golf per un'isola come la Sicilia. Sì, io non giocando a golf non me ne lamento, però detto questo devo dire sì, è vero, è una possibilità, però un campo da golf è un investimento comunque abbastanza costoso per attirare turismo, perché tratta di trovare dell'acqua, fare una manutenzione molto forte. Si adatta bene a paesi vasti con grandi cose. Noi i nostri campi da golf non ce li abbiamo, perché ci abbiamo, sì, per andare in Sicilia, delle città meravigliose, si va a Siracusa, si va a Agrigento. Ecco, quello che mi disturba è vedere che per esempio non ci sono servizi lì, o ce ne sono molti pochi, che non abbiamo dei begli alberghi che stanno vicino ai siti turistici, che non ci sono bei ristoranti nei siti turistici, che spesso non ci sono parcheggi, per cui si vedono macchine accatastate sulla montagna in mezzo alle canne dove vengono abbandonate per uno che deve andare a vedere un'opera d'arte dell'antichità. Pensate di fare banalmente un parcheggio fatto bene, farlo pagare, un'attività economica. Certamente, magari qualche indicazione stradale in più, perché certe volte arrivare in certi posti diventa una caccia al tesoro. Ecco, ci avviamo un po' verso la conclusione, vorrei tornare un po' sulle crisi globali, anche per ricordare il libro Banchieri, politici e militari, edito dalla Terza, che è ancora in libreria, di Innocenzo Cipolletta. Ecco, la crisi globale, i militari avranno ancora un'influenza dei prossimi mesi, dei prossimi anni? Purtroppo sì, lo vediamo anche vicino a noi. La sponda nord dell'Africa è una sponda ancora dominata da militari. I militari sono quelli che negli Stati Uniti d'America stanno premendo per magari dare una lezione all'Iran prima che l'Iran abbia la bomba atomica. Nessuno di noi vuole che l'Iran abbia la bomba atomica, ma l'idea che parta qualche razzo contro l'Iran e si scateni una guerra non ci piace. L'abbiamo un po' dimenticato. Noi, avendo finito con la Seconda Guerra Mondiale, pensiamo che aver risolto tutti i problemi delle guerre. Purtroppo non è così, il mondo è ancora moltissime guerre e molti militari sono ancora al potere dappertutto. Io continuo a pensare che sarebbe meglio che i militari stiano un po' più nelle caserme e meno per le strade. E magari riducendo un po' anche le spese militari, forse sì, anche l'Italia potrebbe dare buon esempio in questo. Anche l'Italia e tanti altri paesi, pensiamo a dei paesi come l'India, la Cina, che hanno problemi di sviluppo, che spendono per i militari e per armi distruttive, l'Iran, quello, certo, che sia. Ecco, l'anno scorso, il 2011, si è concluso con questa uscita degli Stati Uniti, dell'esercito americano dall'Iraq, un po' silenziosa, senza grossi trionfalismi. Non è stata una grande impresa. No, non è stata una grande impresa, è stato un altro Vietnam per gli Stati Uniti d'America. Sono contento che comunque il Presidente Obama abbia avuto il coraggio di chiudere questa pagina. Mi auguro che l'Iraq riesca a riprendere una vita civile. Sappiamo tutti che dopo questa esperienza sarà difficile che ciò avvenga. Io credo che noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare il problema della uscita da questa situazione di crisi. Abbiamo l'Afghanistan che è ancora in una situazione difficile. Bisogna trovare un patto, secondo me, insieme con gli stati arabi del Medio Oriente. Sono loro che si devono occupare di questi paesi, di questi problemi. Stati arabi che comunque non sono certamente tranquilli. La Libia ha un futuro incerto, l'Egitto ancora di più, forse l'unica è la Tunisia che dopo la primavera araba forse ha trovato una maggiore stabilità, però magari guardando in avanti vediamo ancora più occasioni di crisi che non occasioni di tranquillità, se possiamo chiamarla così. Purtroppo è così, abbiamo molti focolai di tensione, abbiamo sicuramente un ritorno nefasto delle religioni all'interno della politica, non solo nel mondo islamico ma anche nel mondo cattolico, nel mondo cristiano. Si stanno ripresentando i radicalisti, stanno ripresentando i razzismi, stanno presentando degli stupidi nazionalismi che stanno tornando, sta riproducendosi una situazione non dissimile a quella che ci ha portato alle due grandi guerre mondiali. Io credo veramente che coloro che hanno un minimo di memoria di quegli anni debbano fare di tutto per evitare che questo avvenga, perché il primo che lancia la pietra scatena una guerra. Sì, anche perché la guerra di oggi sarebbe molto, molto, molto più drammatica di quella già drammatica di cui abbiamo avuto nel secolo scorso, e quindi bisogna cercare di appunto avanzare delle ipotesi culturali nuove, anche delle proposte nuove per questi paesi. Sì, e credo che bisogna anche avere coraggio di aver fiducia. Io avevo salutato con grande speranza l'idea del Presidente Obama che stringeva la mano invece di dare il pugno all'Iran. L'Iran è un grande paese che ha oggi grandi problemi e ha una cattiva guida politica, non ci sono dubbi. Ma bisogna far fiducia ai paesi, perché se non si dà fiducia ai paesi e si ha paura l'uno dell'altro, alla fine ognuno avrà avuto ragione ma saremo finiti in guerra. E allora qual è per concludere l'augurio di buon anno da parte di Innocenzo Cipolletta? Beh, veramente l'augurio, visto quello che abbiamo detto fino adesso, è veramente di riscoprire i valori della pace e soprattutto anche che l'Italia esca dalle sue problemi in una maniera migliore di come c'è entrata. E che sappia fare anche una politica credibile verso l'esterno, questo può essere. Beh, questa l'abbiamo cominciato a fare. Il governo Monti avrà magari disilluso molti su alcune cose, però certo ci ha riportato in Europa e di questo ne siamo orgogliosi. Ci abbiamo pagato un po', ma comunque se è finita. La stiamo pagando e non è finita. Grazie, Innocenzo Cipolletta. Buon anno a quanti ci hanno ascoltato, così come buon anno a Luca Cremonese, Stefania Tagliaterri in redazione e a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, anche quest'anno saranno disponibili sul sito radio24.it. Grazie e ancora buon anno a tutti.